CQ10, c'è qualcuno in ascolto? CQ canale 10, c'è qualcuno in ascolto? Ciao Nazarino, buongiorno. Buongiorno, con chi ho l'onore di parlare? Claudio Porto Torres. Chi sei, l'amico di Porto Torres, che non ho copiato il nome? Claudio. Claudio, ben sentito, buona domenica. È che c'avevo il volume basso e non ho copiato, e non avevo copiato bene la modulazione. Ho acceso giusto un minuto per così per vedere che c'era, ma stavo uscendo subito. Ero lontano dall'apparecchio, ho capito, e quindi non avevo capito. A Porto Torres è solo, il nome no, capito l'Aicla. Sì, avevi risolto per l'antenna poi? No, ancora non ho risolto perché non ho avuto tempo per farla, capito? Ho tutto qua pronto, tasselli, staffe, tutto quanto per metterla. Adesso aspetto che faccia un po' di bel tempo e vedremo di piazzarla. E anch'io la devo rimettere nuova, ma per il momento no, un po' più avanti, come inizia la stagione bella, perché c'ho il tetto è molto in alto e il palo è alto e è pericoloso, non ci deve essere vento. E infatti, no, io ne lascendo a terra, la faccio in modo che la posso salire da solo, capito? E ne la posso scendere da solo, perché sennò è troppo pericoloso, che è alto il palo, anche il mio. E io devo superare almeno le antenne TV, per sicurezza, per non rompere le scatole a nessuno, quindi una volta superate quelle sono a posto. Devo salire almeno 4 metri. E cappa, io devo aggiungere a quello che ho uno da 4 metri, così esce almeno 3 metri fuori dal tetto, capito? Dovrebbe uscire 3 metri e mezzo. Io ce l'ho da 6 piazzato, è 6 metri unico, da un pollice e mezzo, bello robusto, però che spunta dal tetto sono 3 metri e mezzo, perché il resto è staffato a muro, e mi sa che anch'io lo dovrò sollevare un pochettino. Ti ascoltavo più forte io a te, e anche una radio un bel più forte ascoltavo, adesso ti sento più basso, boh. Ma forse perché c'è molto QRM. Ma può darsi, ti ascoltavo molto meglio prima. No, eppure è a posto. Guarda adesso, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. No, già ti ascolto, la radio già è comprensibile adesso. Poi avevo anche il volume basso poco fa, ti stavo dicendo. E quindi, però ti ascoltavo forse molto meglio prima. O è un'impressione mia? Eppure, caspita. Guarda adesso, così, ora. Ma forse adesso è la tua radio. Perché non lo tocco mai, magari quando vado a passare il pennellino per dare una pulita si sposta qualcosa. Ah boh, non lo so, può anche darsi. Va bene, io passo in quel Rix che devo fare cosa, dai. Ci sentiamo alle prossime, Claudio. Grazie per il QSO, io devo passare in QRX purtroppo. Sì, anche io devo fare qualcosa qui su, nel terrazzo qua, e quindi adesso chiuderò anch'io. Buona domenica, Natalia, ci sentiamo alle prossime. K, speriamo in migliori occasioni, dai. Thank you. lasciamo le morte. CQ10. E cosa vuoi tu con questo CQ? Buongiorno Natalino. Ciao già, buongiorno, buona domenica. Altrettanto. Cata, mezzogiorno meno 10 è già. Ehi, a 11.49 per l'esattezza. Ah, se devo lasciare devo cucinare, se no qua non si magna. Benemeda. Vai fornelli, vai. Purtroppo devo cucinare io, che mia moglie è uscita e quindi devo preparare la roba io qua, se no non si magna. Io purtroppo devo, a quell'ora devo mangiare, capito? Immagino, vabbè dai, casomai ci sente più tardi. Buona preparazione. Gaba. Vediamo se c'è qualcuno sul 10. Tutto tacque.